Il giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. L'uomo non è destinato a far parte di un gregge come un animale domestico, ma di un alveare come le api. Immanuel Kant. Buona domenica anche da parte mia. Anche se siete in casa, preparatevi ad entrare nel mondo incantato delle api e delle fioriture su cui danzano. È il momento in cui qualcuna la vediamo volare anche sui vasi dei nostri balconi di città e, scegliendo le piante giuste, vedremo quali, possiamo fare in modo che arrivino più numerose. Le api stanno giovando della diminuzione dell'inquinamento, unico lato positivo della crisi che stiamo attraversando, e anche della diminuzione dello sfalcio della flora spontanea. Certo, i trattamenti chimici in agricoltura rimangono e questo fa sì che questi impollinatori restino profondamente a rischio. Ma c'è chi pensa loro, e di rimando al pianeta, creando giardini per le api. Entriamo allora nell'oasi apistica di Rovigo, Saving Bees si chiama, creata da Matteo De Simone. Di lavoro fa tutt'altro, opera nella logistica, ma è un agronomo e soprattutto un umano innamorato delle api. Bentrovato al Giardino Segreto. Buongiorno, buona domenica. Sì, siamo a Rovigo. Il progetto è un progetto di costruzione di questa oasi apistica perché io credo profondamente che ognuno di noi debba fare qualcosa di importante per noi. Noi che siamo anche il nostro pianeta, credo vivamente in questo, non possiamo transitare senza lasciare il segno, dobbiamo lasciare un segno. Il mio segno è questo, da apicoltore hobbista mi sono innamorato delle api, mi sono innamorato di questo mondo e di questo organismo meraviglioso e ho deciso di dedicare una parte del mio tempo per fare questa, creare questa oasi apistica. È un progetto no profit che si chiama savingbees.org, è un progetto assolutamente no profit in cui stiamo riportando un territorio agricolo a uno stato naturale, facendo varie semine di specie fiorifere spontanee e stiamo via via portando le api, ma non solo le api, perché quest'oasi, essendo molto fiorita, è ricca di impollinatori in genere, che sono api e apoidei. Noi ovviamente portiamo le api perché sono le uniche che riusciamo a gestire. Ecco, in questo momento, quando si parla di fare qualcosa per noi stessi, per il pianeta, e il pensiero, visto il momento, va subito all'emergenza sanitaria in atto, ai medici, agli infermieri. In realtà si può fare, anzi si deve fare moltissimo perché non abbiamo scelta, anche attraverso le api, è così. Assolutamente si deve fare moltissimo perché innanzitutto, se non ci fossero le api, non ci saremmo noi. Si fa risalire a Einstein la frase che se sparissero oggi le api, tra 4 anni sparirebbe la vita sulla Terra. Non si sa se l'ha detta lui, a onor del vero, però è vera una cosa, che il 71% delle specie vegetali dipende dall'esistenza delle api. Se non ci fossero le api, il 90% del nostro cibo non vi sarebbe più. Quindi il nostro pianeta non ci sosterrebbe più da un punto di vista alimentare, oltre che ovviamente verrebbero a mancare tutte le piante che producono ossigeno e che quindi ci permettono di vivere. Oggi l'emergenza sanitaria è fondamentale, focale, però dobbiamo pensare a dopo, dobbiamo pensare a ripartire. Adesso è giusto, stiamo in casa, stiamo attenti a tutto, però pensiamo anche a ripartire. Dobbiamo ripartire in maniera diversa. Io spero che riusciremo a ripartire con quell'energia positiva che ci possa far portare un mondo migliore. E quelli che ci ha spiegato sono i motivi per cui dobbiamo preservare per forza le api, che sono esseri indispensabili e purtroppo lo sappiamo profondamente a rischio. Tuttavia, a prescindere dal loro ruolo fondamentale nel mondo, c'è da dire che la semplice vicinanza delle api sembra fare molto bene. Lo dico perché in questi anni di trasmissione del Giardino Segreto io ho conosciuto diversi giardinieri esperti oppure giardinieri in erba che, dopo essersi innamorati delle piante, perché anche loro sono fondamentali per la nostra vita, tuttavia sono anche benefiche proprio per il nostro equilibrio, ecco, una volta conosciute le api, una volta introdotte le arnie nel loro giardino, sono rimasti stregati anche proprio da questi impollinatori. Perché dicono che ti avvicini a un mondo da cui davvero poi non puoi allontanarti. Ci sono esserini che affascinano. Ma com'è questa cosa? Allora, il mondo delle api è un mondo meraviglioso, perché noi non dobbiamo guardarle come un singolo insetto, le dobbiamo guardare come una comunità, tant'è che si parla di superorganismo, cioè l'alveare si comporta come fosse un corpo unico di cui le api sono delle cellule, delle singole parti, e quando si apre un'arnia e si guarda dentro, si vede l'organizzazione, si vede la struttura, è un qualcosa che affascina. Io mi siedo davanti a un alveare a guardare il volo delle api e a seconda della giornata lo noto diverso e dà questa sensazione di rilassamento. Addirittura si sta sempre di più parlando di apiterapia. Pensate che parlavo recentemente con delle persone che stanno mettendo a punto dei sistemi in cui si sono accorti che respirando l'aria che passa attraverso un alveare è benefica per i polmoni. Tutto ciò che loro producono è assolutamente sano e benefico. Noi pensiamo al miele, non c'è solo il miele, pensiamo che le api dipingono l'interno della loro casa con la propoli. La propoli che è una sostanza che è antibatterica, antivirale e antifungina, e che loro selezionano dalle piante, perché la producono loro, ma la producono raccogliendo varie resine di varie piante medicinali che sanno loro quali sono, noi non lo sappiamo. Quindi è estremamente affascinante se pensiamo a tutto ciò che un piccolo insetto è in grado di far questo. Lo stesso miele ha delle caratteristiche antibatteriche. Nella storia, nel passato, gli antichi romani lo usavano per cicatrizzare le ferite, perché facilita la cicatrizzazione e impedisce la formazione di infezioni. Poi basta pensare che Virgilio, no, disse all'interno delle Georgiche una frase in cui disse che praticamente nelle api c'è una parte della mente divina, quindi i nostri antenati lo sapevano bene questo, sapevano bene quanto fossero importanti questi insetti per noi. Miele, propoli, quindi frutto di piante curative, poi vedremo quali. Ecco, però devo dire che in piccolo, pur abitando in appartamento, pur essendo una cittadina, il potere terapeutico delle api che ci ha raccontato un po' lo riesco a cogliere, perché quando mi arrivano sui vasi, per me è una festa, posso dire che mi svoltano la giornata. È un'allegria vedere le api e poi sapere anche che attraverso le api si creano dei corridoi urbani. Allora vorrei sapere quali piante scegliere per avere delle api anche sui balconi e sui terrazzi di città. Prima però vorrei che ci portasse in natura, ci facesse un po' sognare, ci accompagnasse in quest'oasi apistica che ha creato, che state creando a Rovigo, perché so che avete seminato diverse specie, avete ripopolato in qualche modo la flora selvatica mellifera. Quali piante avete scelto? Sì, allora ci sono tante specie che sono utili alle piante. E noi stiamo utilizzando diversi tipi di piante, piante erbacee, cespugliose e arboree. Stiamo seminando vari trifogli, tra cui il resupinato e l'alessandrino, e il trifoglio rincarnato, borragine, fiordaliso. Ci sono delle piccole percentuali di senape, colza, di malva, coriandolo. C'è una zona dove verrà fatta crescere l'edera, perché l'edera è molto importante perché fiorisce in settembre, quindi dà alle api una forte energia per passare un bel inverno. Vorremmo anche piantare del topinambur in un'altra zona, anche questa fiorisce in settembre e fornisce il polline e il nettare alle api che le aiutano per l'inverno. Poi ci saranno delle zone di officinali, metteremo molta lavanda. La lavanda ha un nettare favoloso, un nettare che per le api rinforza il sistema immunitario e quindi le rende molto forti dal punto di vista della salute loro. L'idea è anche creare una zona con timo rosmarino, salvia, menta, proprio perché sono piante che crescono senza grandi bisogni, quindi ovviamente cerchiamo di fare tutto senza impatto, non dobbiamo aver bisogno di acqua. Tutte queste piante devono poter vivere con la loro acqua, con l'acqua naturale del terreno, senza apporti, e infatti tra le varie specie che più avanti però queste metteremo ci sarà la Silia nodiflora per esempio e la Verbena pulchella, che sono entrambe delle piante che vengono utilizzate per esempio per costituire anche dei prati a impatto zero, perché non hanno bisogno di acqua in nessun modo. Quindi le piante aromatiche, oltre a curare noi umani, fanno bene e difendono anche le api. Da lì poi l'effetto antivirale, antibatterico di miele e di propoli. Assolutamente, assolutamente per questo, ma anche tutti i nettari hanno rielaborato le api, perché dobbiamo pensare che le api il nettare lo rielaborano e lo arricchiscono, perché da nettare a diventare miele loro fanno varie azioni. Tra queste tolgono l'acqua e l'altra azione lo arricchiscono di enzimi e di sostanze nutritive, che sono proprio queste che hanno questo effetto antibatterico e antivirale, questi enzimi prodotti dalle api stesse. Quindi non è sufficiente disidratare del nettare per avere l'effetto benefico del miele. È necessario che lo lavorino loro e solo loro. Abbiamo capito allora, come ha detto, che anche le api ci mettono davvero molto del loro, cioè arricchiscono ulteriormente quello che già le piante regalano. Ecco, dalle piante che ci ha citato mi viene da dire che il vostro miele è un miele mille fiori. Noi facciamo una cosa molto speciale. Noi pensiamo alle api, quindi cosa facciamo? Loro iniziano a depositare il miele adesso, siamo in aprile, quindi iniziano a depositare tutte le piante da frutti, i ciliegi, il tarassaco che trovano nei prati. E poi dopo continuano a depositare, a un certo punto arriverà la fioritura della acacia. La fioritura della acacia è una fioritura che normalmente l'apicoltore tradizionale toglie, nel senso, per fare il miele d'acacia. Dopodiché arriva il tiglio, anche questo l'apicoltore tradizionale lo toglie per fare il miele di tiglio, che sono dei monoflorali. Quello che noi facciamo è gli lasciamo a loro il loro miele per tutto il periodo fino a settembre, quindi l'acacia loro la depositano. Depositeranno anche il tiglio, depositeranno tutte le fioriture della zona e però non solo le depositano, ma le prendono, perché tra una fioritura e l'altra ci sono dei momenti vuoti, quindi quando loro hanno bisogno prendono, quando invece hanno troppo depositano. Si arriva ad agosto, agosto è un periodo secco dove mancano fioriture, quindi loro prenderanno. A settembre, quando arrivano i primi freddi, loro cosa fanno? Riescono a capire quanto lungo sarà l'inverno e prendono un anno di più, un anno di meno, ma prendono tutto ciò che gli serve per passare l'anno e quindi per passare l'inverno in assoluta sicurezza. In questo modo noi non dobbiamo mai nutrire le api. Quindi loro si gestiscono da sole senza l'intervento dell'uomo. E noi lo facciamo in questo modo, teniamo un miele che è tecnicamente un miele fiori, ma in realtà è un miele fiori ricchissimo. Io dico che è l'impronta digitale floreale della zona. Chiunque lo assaggia, perché io sono innamorato di questo e quindi faccio presto a dirlo, però chiunque l'ha assaggiato, chiudendo gli occhi, ha detto: mi sono risentito bambino. Ho risentito i sapori di quando ero bambino. Questo perché? Perché contiene una gamma di sapori, di odori importante e molto molto completa. Contiene tutte le fioriture che si sono susseguite nell'estate. Il sapore dei fiori è solo dei fiori, che poesia. Quindi quando dite che non le nutrite, intende dire che non date alle api acqua e zucchero, come purtroppo succede spesso? Sì, l'apicoltore normalmente cosa fa? Prende i vari mieli a scadenza, ovvero quando ci sono le varie fioriture per fare i monoflorali, perché purtroppo sono diventati di moda, il consumatore cerca il miele monoflorale, cosa che secondo me in realtà perde nel sapore, perché il monoflorale è meno ricco di sapori, e quindi portando via tutto questo miele quando l'ape in realtà ne avrebbe ancora bisogno, poi dopo, fine inverno, spesso è costretto a nutrirlo con acqua e zucchero. Ovviamente gli si toglie il miele, che è un alimento vivo, gli si dà acqua e zucchero, che è un alimento morto, non ha nessun nutriente dentro al di là dell'energia. Nel nostro modo, ovviamente, questo non deve essere, perché noi pensiamo alle api. Poi loro ci fanno questo regalo, che è questo miele. Noi prendiamo l'eccesso, ovviamente, ma è talmente ricco, talmente bello, che compensa qualsiasi altra perdita. Prendete l'eccesso, vuol dire che le api si tengono tutto il miele che hanno prodotto per trascorrere l'inverno e voi utilizzate quello che avanzano. Sì, nel senso che a settembre, quando arrivano i primi freddi, loro portano nel nido tutto quello che gli serve, quindi si perde circa un 30% del miele, portano nel nido tutto quello che gli serve, quello che lasciano sopra, lo si chiama melario, una specie di magazzino che sta sopra il nido, sopra dove loro hanno la covata, quindi sopra la casa, diciamo, dove loro fanno la dispensa a lungo termine. Quando a settembre hanno portato nel nido tutto ciò che gli serve, quello è l'eccesso, quello non lo andranno più a toccare. Ecco che quello lo possiamo portare via, senza far nessun danno a loro, perché loro hanno già preso la loro dispensa e se la sono riportata in casa. C'è un'ape che si posa su un bottone de rosa, lo succhia e se ne va. Tutto sommato, la felicità è una piccola cosa. Trilussa. questo ciò che succede nell'oasi apistica di Rovigo di Matteo De Simone, savingbees.org per approfondire. Tra poco però rientriamo in città per portare le api anche sui nostri balconi. Promo 24. Sono tanti i settori in crisi a causa del coronavirus. Uno dei più colpiti è il turismo ed eventi, tra i più importanti motori dell'economia e della cultura italiana. I principali operatori del turismo chiedono a gran voce un fondo straordinario per fronteggiare la crisi. Le associazioni Astoi Confindustria Viaggi, FTO e importanti operatori del comparto hanno promosso il Manifesto del Turismo per l'Italia, che con l'hashtag Ripartiamo dall'Italia chiede il sostegno di tutti per la ripartenza del turismo. Operatori del settore e consumatori possono aderire al manifesto sulla piattaforma change.org. Salviamo il turismo, salviamo l'Italia. Info e aggiornamenti su ripartiamodall'italia.it. Il giardino segreto. Qualcuno ritiene che nelle api vi sia parte della mente divina, un soffio d'infinito. Virgilio, Georgiche. Tutti noi possiamo fare qualcosa per aiutare le api e noi stessi, di rimando, visto che ci sono indispensabili. Possiamo collaborare per attirarle in città anche attraverso le fioriture dei nostri balconi, davanzali, terrazzi, piccoli giardini, creando così preziosi corridoi urbani, autostrade della vita, potremmo chiamarli. Matteo De Simone, di Saving Bees, cosa dice? Possiamo fare qualcosa anche dalle città? Sì, assolutamente. Ci sono già delle città in Europa che lo stanno facendo, stanno creando dei corridoi urbani. Oslo, Amsterdam, sono due città che hanno creato dei corridoi urbani. Londra ne sta creando uno di 11 chilometri e sono dei corridoi dove loro lungo strade, lungo i parchi della città, non solo mettono molte specie arboree, quindi proprio alberi, con varie fioriture scadenzate, ma mettono anche zone di piante erbacee cespugliose. Se pensiamo a una città, per esempio, perché non mettere le ginestre nelle rotonde, eriche, oppure la budleia, è un altro arbusto che fa dei fiori bellissimi e ha tra l'altro una fioritura molto lunga durante tutta l'estate. Quindi perché non portare nelle nostre rotonde, nei nostri viali, queste piante, invece che tagliare l'erba a raso e avere di nuovo una monocoltura verde anche all'interno delle nostre città? È bello il verde, ma sarebbe bello averlo fiorito. Allora, in attesa che anche le amministrazioni italiane si accorgano di questo e si organizzino, cerchiamo di fare qualcosa noi privati cittadini attraverso i nostri giardini urbani, i nostri balconi, i nostri terrazzi. Quali piante scegliere? Allora, io partirei dalle officinali per un motivo, che poi le usiamo anche in cucina e quindi ci danno piacere guardarle, ma ci danno piacere anche ad averle in casa. Quindi sicuramente timo, lavanda poi la posso usare quando ha finito. Tra l'altro la lavanda, quando ha finito di fiorire, le api hanno tolto il nettare, l'olio essenziale è più profumato, è più buono. Quindi lavanda, salvia, menta e anche il basilico. Però il basilico lo facciamo andare a fiore. Quindi tutte queste piante le facciamo andare a fiore. Non togliamo le infiorescenze, perché così non solo ne possiamo godere noi, ma ne godono anche le api e tutti gli insetti impollinatori che transitano in zona. Perché sono tante specie. Come officinali. Poi bellissimo anche il fiordaliso, per avere fiori, fiordaliso, borragine, piante che non si pensano alla casa, però certi trifogli, tipo l'incarnato, che fa una fioritura bellissima, rossa, scura, che tra l'altro è un rosso che le api vedono benissimo, perché lo vedono a un tono porpora, per cui il trifoglio incarnato viene visto benissimo dalle api ed è molto apprezzato, sia per il nettare che per il polline. Ricordiamoci che il polline è importantissimo. Il polline è importante tanto quanto il nettare. Il nettare è l'energia, ma il polline sono le proteine. Quindi grazie al polline le api costruiscono il loro corpo. Senta, invece cosa dire a chi delle api ha paura? Perché c'è chi dice, no, per amor di Dio, pungono, sono pericolose, io ho dei bambini in casa. Ma no. Allora, innanzitutto, mentre l'ape fa quella che si chiama bottina, quindi raccoglie il nettare, non punge se non viene fortemente disturbata, ma la devo proprio prendere in mano o la devo schiaffeggiare in un certo senso perché mi punga. nel momento in cui lei sta prendendo il nettare non punge, anche perché riempie la sacca melaria, che è una parte dove lei tiene il nettare, e quando è piena di nettare non può pungere, cioè non riesce a curvare l'addome per pungere, quindi l'ape in quella situazione non punge, salvo, ripeto, che non andiamo a toccare o a disturbare in maniera forte, però non possiamo starci a 2 centimetri di distanza, lei non ci verrà a pungere. Ma perché le api non sono le vespe? Le vespe sono attirate dal nostro cibo, quindi ci vengono addosso, possono essere pericolose. Invece alle api interessano solo i fiori. Sì, c'è una differenza immensa. L'ape si nutre solo dei fiori, quindi nettare e polline. La vespa invece è un carnivoro, quindi la vespa ha bisogno di proteine, quindi la vespa viene sui nostri cibi, soprattutto se c'è carne, e quindi, ma anche l'apparato boccale vespa e ape è completamente diverso. La vespa mastica, l'ape può solo succhiare, quindi sono due animali che sono completamente diversi e non si possono assolutamente confondere, anche perché l'ape è pelosa, la vespa no, sono completamente diversi, e l'atteggiamento dell'ape è un atteggiamento estremamente docile. Non andrei mai ad aprire un contenitore con dentro 60.000 vespe, ma un contenitore con dentro 60.000 api spesso lo posso aprire addirittura senza essere vestito da apicoltore, perché se le apro con lentezza e con docilità loro assolutamente non mi attaccano. Senta, io ho intervistato di recente Giovanni Storti del Trio, perché anche lui è pazzo delle piante, innamorato della natura, e mi ha rivelato che nella sua tenuta, nel suo terreno di campagna che ha in Piemonte, ha introdotto le arnie e mi ha detto: a questo punto abbiamo davvero tutto. Ecco, chi ha la fortuna di avere uno spazio verde, un giardino abbastanza grande, un bel terreno, può pensare a metterci delle arnie e quindi ad avvicinarsi alle api, oppure è qualcosa soltanto per addetti ai lavori, per specialisti? No, allora, un'arnia che ha un giardino può averla, assolutamente può averla chiunque, può gestirla chiunque un'arnia. Io consiglio però prima di studiare, un minimo un corso di apicoltura serve, perché comunque stiamo gestendo un organismo vivo che è complesso, quindi va conosciuto, è come se uno vuole costruire comunque qualcosa, deve comunque studiare prima, quindi un minimo di preparazione assolutamente ci vuole. Poi ci sono, si stanno sviluppando delle arnie particolari, tipo la top bar, che sono più semplici da gestire, e le stanno proprio mettendo a punto per esempio per certe zone dell'Africa in cui il livello tecnologico è più basso, per cui sono più semplici da gestire. Anche noi stiamo ragionando su come creare una piccola arnia da giardino che non abbia necessità di attrezzature particolari, però un minimo di conoscenza ci deve essere, e in effetti anche noi in futuro vorremmo creare dei mini corsi proprio per chi vuole avere giusto un'arnia in giardino. Anche perché lei è un agronomo, lavora nella logistica, però è un agronomo, per cui ne sa, ecco. Voglio ricordare che il progetto dell'Oasi Apistica di Matteo De Simone a Rovigo lo si può scoprire attraverso un sito che è Salvare le Api, però in inglese, savingbees.org. Ma prima di lasciarla andare voglio farle un'ultima domanda. Che cosa le stanno insegnando le api? Tantissimo. Mi insegnano a rispettare i tempi. Mi insegnano a prendersi un respiro e sedersi per terra sull'erba a guardarle, perché non sto perdendo la vita, anzi la sto acquistando. Mi insegnano ogni tanto a proprio fermarsi e a portare rispetto per tutto ciò che è attorno. Loro hanno un'organizzazione all'interno dell'alveare che è un'organizzazione precisissima, ma di un rispettoso e di un comunicativo enorme tra di loro. Comunicano in continuazione tra di loro. E tutto ciò che fanno non è per il bene del singolo individuo. Il singolo individuo, come dicevo, è come una cellula di un organismo. È la comunità che conta. Ecco, dobbiamo, per me, quello che io ho imparato è proprio questo, il sapersi fermare e il ricordarsi che ciò che conta è la comunità. Non sono io singolo. Io singolo conto poco. Quello che conta è tutta la comunità. Questo è l'insegnamento più fondamentale che possa venire dalle api, e credo che sia estremamente attuale oggi. L'uso indiscriminato